e sappiamo che l'informazione è importantissima per la formazione dell'opinione pubblica ed è importantissima anche nella situazione di guerra, così come nelle guerre sappiamo benissimo che c'è molta propaganda e la propaganda viene da tutte le parti in causa. Quindi per fare un'informazione il più corretto possibile, il più indipendente possibile, bisogna sempre mantenere all'attenzione il dubbio, l'approfondimento di quello che sta avvenendo. Questo non per mettere in discussione che ci siano stragi in Ucraina, questo è evidente a tutti, ma per vedere un po' cosa c'è dietro, per sapere per esempio cosa ne pensano tutti gli ucraini, non solo quelli che sono per combattere fino alla morte per vincere questa guerra. E io penso che, come è successo in tutte le guerre che io ho seguito, ne ho seguite molte, c'è sempre una parte della popolazione che chiede come prima cosa la fine della guerra, perché le condizioni di vita durante un conflitto sono veramente insopportabili. Infatti l'abbiamo visto anche in Ucraina attraverso i servizi, che ci sono persone che dicono che stanno vivendo da un mese sottoterra, senza acqua, senza elettricità, senza niente. Com'è possibile che queste persone possano vivere così? Chi fornisce loro gli aiuti? Ma nessun giornalista si è mai posto questo problema, non ha mai posto nessuna domanda su questo e su altre situazioni ancora più gravi di questa. Allora mi chiedo come si può fare informazione così senza cercare di capire cosa c'è dietro, come si può accontentarsi di vedere quello che gli ucraini ti fanno vedere, perché non c'è dubbio che i giornalisti vengano accompagnati sul posto e vengono indirizzati in un certo modo, ma questo succede spesso nelle guerre, questo non mi meraviglia, ma forse non bisogna accontentarsi di questo che pure ti permette di fare il servizio, di riprendere delle immagini, bisogna cercare di andare anche oltre, di sfuggire un po' ai canali ufficiali, e questo purtroppo mi sembra non avvenga in Ucraina. Tu hai citato quello che qualche anno fa veniva chiamato giornalismo embedded, cioè insomma giornalisti che possono muoversi solo accompagnati insomma da una delle parti in causa, però nella lettera citate anche un altro problema, cioè la verifica delle fonti prima di pubblicare delle notizie. Sì, infatti, ma appunto non appartiene al giornalismo embedded questo, il rispetto di questo fondamento dell'informazione, che è quello della verifica delle fonti, e questo non mi pare proprio che avvenga, perché in questo conflitto vediamo anche su posizioni, insomma non è possibile esprimere qualche dubbio su quello che sta avvenendo, come dicevo non per negazionismo, io non nego niente, io sono convinta che le stragi ci sono, però andare un po' oltre a chiedere alla gente, non accontentarsi della versione ufficiale che poi insomma a volte sono anche dichiarate, le fonti sono gli ucraini, sono le autorità ucraine e che appunto indirizzano i giornalisti in un certo modo, come facevano gli americani in altre situazioni, dove a volte persino in Iraq si era arrivati a negare l'evidente per sostenere quella che era l'immagine che volevano dare gli americani del conflitto in quel determinato momento. Io penso che si debba sempre, per rispettare i fondamentali del nostro mestiere, coltivare l'ombra del dubbio e verificare fino in fondo quello di cui si sta parlando. Lo so che in situazioni di guerra questo è complicato, però non bisogna rinunciare.